Summertime di Elisabetta Fiorito. Lontana da stupore e a te volo lo pensiero, niente voglia, niente spero, cadenette sembra a fianco a me, si sicura di st'amore, con mi so sicura te, oi vita mia, oi cuore e chi sto cuore. Sei stato il primo amore, o prima e l'ultimo sarai. Buon pomeriggio, abbiamo sentito un ricordo struggente, la scena madre di Roma città aperta, il film, il capolavoro di Roberto Rossellini, girato nel 1945 con pochissimi soldi, con pochissima pellicola, ma con una grandissima protagonista, Anna Magnani, e abbiamo sentito anche Anna Magnani che cantava O Soldato Innamorato. Perché questa retrospettiva? Perché questa sera alle 21.30 a Villa Panfili a Roma c'è proprio uno spettacolo dedicato alla grandissima attrice Magnani, Anna detta Nannarella, e ad interpretare Anna Magnani un'altra grande attrice però contemporanea, Anna Mazzamauro. Buon pomeriggio Anna. Ciao, scusa, ma evidentemente quando ci sovrapponiamo non ci capiamo. Non è Magnani Anna detta Nannarella, ma in arte Nannarella. C'è una leggera sfumatura nel titolo. Certo, hai fatto bene a correggerci. Sì, senti, sempre Magnani. È sempre Nannarella. Ecco, Anna Mazzamauro, che cosa vuol dire scoprire questa donna, che poi è stata una donna con una vita anche sentimentale burrascosa all'epoca di Roma città aperta, no? Aveva questo flirt poi con Rossellini, è stata una donna che però ha poi emancipato anche tutte le donne italiane con Ma il hai suo detto, essere. Hai detto flirt con Rossellini. È stato un grandissimo amore. Mio Dio, io lo so che tu sei contemporanea, molto contemporanea, ma non devi esagerare nell'usare un linguaggio che non c'entra niente con la Magnani. Un flirt è stato un amore tragico, impossibile, tempestoso, tanto che io cito nello spettacolo la voce umana che lei ha interpretato sotto la regia di Rossellini, e che però io ripropongo in una telefonata che lei fa a Rossellini stesso, quindi una sovrapposizione di cose. Per cui un flirt! Mannaggia, poi arrivò Ingrid Bergman e glielo rubò, diciamocelo, queste donne del nord. Esatto. Perché infatti, così andò, no? E lei fu devastata da questa cosa. Lei la chiama urlando, a Longagnona, a Buzzona. Guarda che se tu fai Stromboli, io faccio Vulcano, perché c'è stata la contemporaneità del girato dei due film. Vabbè, insomma, succede questo piccolo flirt delicato. Senti Anna, e tu a un certo punto sei in scena e racconti la sua storia, ma la racconti in prima persona oppure sei una narratrice? Sono un po' tutto, io sono Anna Mazzamauro, divento Anna Magnani, racconto, faccio le prove, canto, dico, la gente, il fascino di questo spettacolo sta nel fatto che inizialmente la gente pensa che io, che sia io e basta, poi dopo le signore dicono alle signore vicino, ma sta parlando della Magnani? Dopo un po', ma sta parlando di se stessa? Ma forse, e poi dopo non se lo chiedono più, c'è una sovrapposizione di immagini, di ricordi, di storia, di carriere. Diciamo che ci accomuna, io non desidero imitare nessuno, perché dico io all'inizio, io non voglio imitare nessuno, intanto io sono diversa, intanto sono viva. Perciò la diversità già consiste in questo, ma al di là della battuta, non è un'imitazione assolutamente, ognuno ha la sua storia, non mi sarei mai permessa di imitare, perché non mi piace imitare, non sono capace, non, io sono ma importante. Ma per te lei è stata un punto di riferimento? No, assolutamente, io sono di quelle attrici che dicono, o attori che dicono, il mio mito è stato, no, assolutamente, io interpreto la signora Anna Magnani come interpreterei Cristina di Svezia o Casa di Bambola o una commedia di Neil Simon, perché è un personaggio a volte da grande tragedia, a volte da dramma, a volte da commedia, a volte da van spettacolo, e quindi non è stato il mio mito. Perché dovrebbe essere il mio mito? Riconosco in lei delle qualità eccezionali, dei ricordi meravigliosi, non diretti perché non l'ho conosciuta, ma ricordi storici, ricordi professionali. Però non è stato il mio mito. Il mio mito è qualsiasi attore consideri il teatro o questa professione in maniera sacra come faccio io, allora sì, ma ce ne sono altri oltre la Magnani. Diciamo che non è stato il tuo mito, ma è stato comunque un mito, e poi soprattutto il suo legame con la città, con Roma, era incredibile. Allora noi la vogliamo sentire, vogliamo omaggiare Anna Magnani proprio per questo spettacolo che c'è stasera con Anna Mazzamauro in una sua canzone, una canzone romanesca. San Pietro Campidoglio da lettiera, quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma prima sera, girasi la poi gira, canta si la vuoi canta, ed qua della dar fiume, di qua della dar fiume c'è una stella. Beh, ovviamente il fiume si sa qual è, no? Anna Mazzamauro. La stavo cantando insieme a lei perché la canto la sera, dedicandola al pubblico romano, ma perché viene spontaneo, perché c'è un ricordo dei momenti dell'epoca dei nazisti in cui la Magnani è stata assalita dai fascisti che le hanno proibito di usare la parola libertà. Il pubblico l'ha difesa e a un certo momento tra le urla del pubblico, Nannare, a te guagli te tocca, Nannare, sei tutta noi, si è avvicinato un uomo sotto il palcoscenico, le ha dato un sacco di patate e le ha detto so patate, stiamo in guerra, non si trovano, prendile con tutto il cuore. E lei, ringraziando il pubblico, dice queste non so patate, so fiori, e canta quanto sei bella Roma. Grazie allora per questo ricordo. Quindi vedere questo spettacolo è proprio, ci fa capire chi era Anna Magnani, perché è proprio fondamentale. Ci spieghi com'è? Nessuno capisce, io detesto le biografie, e infatti scherzando nello spettacolo dico la biografia pare ne stampe per la salute, ta sei fatta biografia amore bravo, molto senti meglio, perché detesto le biografie, perché nessuno saprà mai, anche il più grande autore che si riferisca a un grande personaggio, saprà mai quale tormento, quale gioia, quale dramma possa aver provato e sentito questo personaggio stesso. Assolutamente sì, ma io non dico biografia, però la storia, si conoscerà qualcosa di più di Anna, diciamo, Magnani. Che io di la, Anna racconto, Magnani. La racconto e lascio al pubblico interpretare, io offro e il pubblico interpreta quello che io voglio offrire. È uno spettacolo pieno, stracolmo di emozioni di divertimento, di emozioni di dramma, perché parallelamente alla sua vita professionale, che è stata, come sappiamo, colma di grandi meraviglie, parallelamente, dicevo, ci sono le tragedie della sua vita, Luca, io nella presentazione dico Luca il suo bimbo di dolore e l'Oscar il suo pupazzo di stupore. Quindi vabbè, punto, se no io vado avanti e ti faccio tutto lo spettacolo. Ah no, ma noi infatti stiamo ascoltando con molto piacere. Allora, Anna Mazzamauro, lo ricordiamo, questa sera interpreta e non interpreta, racconta e diciamo così non racconta, ma canta anche Anna Magnani. Mi hai detto il titolo esatto è Anna Magnani, no, Anna? Magnani Anna, in arte Nannarella. In arte Nannarella. Perché poi vedi, ci unisce anche non solo solo la romanità che è fondamentale, un'attrice bravissima ma che sia del nord non può interpretare la Magnani se non tecnicamente, così come io non potrei interpretare la Maria Brasca della Lombardia. Ci unisce la romanità, dicevo, e il nome Anna, per cui anch'io per i romani sono Nannarella. E certo, allora certo. Le due nannarelle insieme, quella di ieri, quella di oggi, in Serate d'Attore, Villa Panfili, Roma, alle 21.30. Ricordiamo Anna Mazzamauro che racconta Anna Magnani. E noi vogliamo regalare un'altra breve canzone di Nannarella, della nostra Nannarella. Quante macchine venivano la sera, quanta gente qua affacciata a stare in piedra, quanta folla di maschiette e di gagà, quante radio nelle macchine a suonare, non scendevano le coppie innamorate. Summertime. E adesso andiamo a Roccella Ionica e Gioiosa Ionica, tutto in provincia di Reggio Calabria, che al mare, al sole della mitica Calabria, può anche andare a vedere però Metamorfosi, una rassegna di teatro, arti visive e musica che prenderà il via domani fino al 7 agosto. Un territorio che vuole liberarsi dalla cultura mafiosa per garantire libertà e possibilità di crescita alle nuove generazioni, almeno questo è l'input della rassegna. Buon pomeriggio Gabriella Maiolo. Allora, di che cosa si tratta? Il teatro come antitesi e soprattutto come antibiotico, non so, che esatto, cosa dobbiamo esatto. fare per liberarci dalla cultura mafiosa? Andare a teatro, recitare? Il teatro e l'arte non è che hanno una risposta così diretta, però quello che possono fare è sensibilizzare, possono trattare il tema, anche trasformandolo, proprio azzeccatissimo quest'anno il tema metamorfosi, perché tramite linguaggio artistico, teatrale, affrontiamo la tematica, delle tematiche importanti, però sempre con dei codici artistici. Ecco, io leggo che voi avete intenzione anche di esporre opere originali di degrado urbanistico ambientali, quali abusivismo, ecomafia, inquinamento e abbandono storico archeologico. Cose leggerine, insomma. Però. Molto, molto leggere, però molto importanti. Insomma, non avete paura. Ecco, questa è la prima notizia, che non avete paura. Non abbiamo paura. Oddio, cioè non è che non abbiamo paura, la paura è la cosa che in un certo senso fa muovere anche le cose, ecco, anche questa ha una paura costruttiva, non è la paura che tendenzialmente si può trovare in questi posti, quella che poi non ti fa fare le cose, noi abbiamo una paura costruttiva, cioè che ci muove invece ad andare avanti giorno per giorno, ad affrontare il problema, anche se possiamo avere delle minacce o delle, diciamo, degli intoppi, chiamiamoli così. Delle opere importanti sull'abusivismo, abbiamo una campagna di sensibilizzazione che parla proprio di questo, cioè cartoline dalla Calabria, in cui azzardiamo proprio delle cartoline un po', diciamo, inusuali, non è il mare, il sole, ma sono gli ecomostri. Un'opera di 50 metri quadri esposta al castello che parla dello stesso tema. Il teatro, lo spettacolo Laura C che parla della nave abbandonata al largo di Saline Ioniche, dalla quale hanno attinto stragi come quella di Capaci. Tutti temi abbastanza importanti, la mafia, ecomafia, abusivismo, però sempre con la spinta costruttiva della trasformazione. Proprio per questo abbiamo associato al numero che rappresenta questa statale che ci passa attraverso un termine poetico come quello della metamorfosi, per quello che l'abbiamo accostati. Ecco, la statale 106, no? La Locride, una strada statale, scrivete, che è stata testimone di sviluppo ma anche di tragedie, che costeggia piazze, case, resti, teatri greco-romani, scheletri di alberghi non finiti. Quindi tra lo scheletro d'albergo non finito e il teatro greco-romano cerchiamo di recuperare una legalità. Esatto, benissimo, guarda. Esattamente questo, è una statale che calcola che viene, anzi proprio il suo nome, diciamo, non ufficiale, è Strada della Morte, e non può essere soltanto questo. La statale da veramente testimone di tantissime altre cose positive, come anche la rassegna Straniamenti, che da 4 anni vive e riesce a sopravvivere in questa realtà, realtà importanti che sono comunque finanziate dalla provincia, diciamo che sono presenti anche in questo senso, ed è importante trattando di questo tema. Non voglio fare pubblicità a nessuno, però. Ma io vedo anche, vedo anche che voi andrete poi nel carcere di Gioiosa Ionica per fare un primo ciak di un corto fuori tempo massimo. Sì, è un corto di Alberto Gatto, una regista emergente di Gioiosa. Si vedrà il carcere non ha visto solo il primo ciak, non vedrà soltanto il primo ciak, ma ha visto proprio è stato proprio set del cortometraggio, ed è un carcere particolare perché in se stesso è un mostro, diciamo, perché è stato costruito ma non è stato mai aperto, e in un certo senso non accoglie quello che sono, che ne so, tutte le cose lasciate, abbandonate dal comune. È un deposito, è diventato semplicemente un deposito. Quindi uno spreco di denaro pubblico. Per noi è importante fare questa serata lì, patrocinata dal comune di Gioiosa Ionica, insomma. Quindi questo voglio ribadire, il fatto che comunque non siamo abusivi. Cioè, per certi versi è un'alleanza anche questa che noi creiamo con le realtà anche politiche locali, che possono essere la provincia, che può essere il comune di Roccella Ionica, il comune di Gioiosa. E questo è importante trattando di trasformazione sociale, perché soltanto tramite queste alleanze poi alla fine effettivamente si può raggiungere la vera trasformazione, il vero cambiamento per noi. Allora, martedì 3 agosto si parte, gli appuntamenti sono intanto al convento dei Minimi, a parte sabato a Gioiosa Ionica, carcere nuovo, come abbiamo sentito, la conferenza stampa di presentazione di Fuori Tempo Massimo, questo corto ambientato nel carcere di Gioiosa Ionica, ma generalmente gli appuntamenti è il 3 agosto al convento dei Minimi, con l'inaugurazione della mostra, poi il 4 agosto tutto quanto avviene alle ore 22, a quanto ho visto, Homish, andata e ritorno, e poi lo spettacolo L'altra faccia della luna di Huch, il 5 con Lu Studio sulla malavita, una produzione Straniamenti, importante anche questo, produzione Straniamenti eccetera, e venerdì 6 agosto Goodbye Straniamenti e Laura C, quello che ci dicevi, insomma una settimana intensissima per ricordarci anche che la Calabria è in Italia e soprattutto combatte contro la criminalità organizzata e cerca di far sentire la sua voce. Grazie a Gabriella Maiolo. Grazie a voi. E quella che sentiamo è la sinfonia sicuramente più struggente di Ludwig van Beethoven, la settima, la sinfonia magari del dolore. E noi la ascolteremo in una località molto importante per l'Italia, che è quella dell'Aquila, nell'ambito del Festival Internazionale di Musica Pietre che Cantano, giunto alla 9ª edizione. Musica ad arte nei borghi storici dell'Aquilano, L'Aquila, Ocre, Fossa, Villa Sant'Angelo, San Demetrio, né Vestini. Dal 3 al 18 agosto, insomma una sfida d'arte in una regione, poi come sappiamo, che ha trascorso dei momenti molto molto bui. Buongiorno, buon pomeriggio a Luisa Praier. Buongiorno. Che cosa c'è in cartellone quest'anno, che mi sembra da domani fino al 18 agosto sia un cartellone piuttosto intenso, tantissimi appuntamenti? Allora abbiamo 8 concerti che appunto cominciano domani, l'ultimo sarà il 18 agosto. Sono diciamo concerti, i primi due che io chiamo serate inaugurali, la prima a Ocre dove il festival è nato, nel bellissimo monastero di Santo Spirito. Abbiamo una maratona beethoveniana con la serie completa delle sonate di appunto di Beethoven per violoncello e pianoforte, e il giorno dopo l'inaugurazione all'Aquila, in un luogo nuovo per tutti gli aquilani che saranno molto felici di rientrare in un luogo antico della città storica che grazie a un restauro magnifico fu diciamo preservato dai danni del terremoto, e entreranno per la prima volta in un luogo che comunque era destinato a un uso privato perché ci sono dentro gli uffici della Corte dei Conti, dell'Avvocatura, che anzi ringraziamo per l'ospitalità, ed è il Chiostro di San Domenico, un complesso quattrocentesco magnifico, esempio dell'arte del secolo d'oro aquilano, del primo Rinascimento. E qui fate la settima di Beethoven. Facciamo no? la settima di Beethoven con il concerto di Saint-Saëns, con lo stesso violoncellista Leonard Elschenbroich, che farà la maratona beethoveniana. È un debutto al festival di un giovane che è nelle grazie dei più importanti festival europei, e ha debuttato già anche negli Stati Uniti, farà questa maratona con Eschenbach in Germania la settimana prossima, quindi abbiamo un'anteprima molto importante. Poi abbiamo la settimana con il quartetto di Cremona dal 9 al 12 con due concerti del quartetto, e che si conclude con una grande azione dimostrativa per la tutela della musica dal vivo organizzata con gli allievi della Masterclass, i migliori allievi del Conservatorio dell'Aquila e molti giovani concertisti italiani. Si chiama Music Chambers, e cioè camere di musica nelle quali verranno accolti uno, due o massimo tre ascoltatori per volta, per un ascolto proprio riservato a loro da parte di questi giovani. Chiudiamo poi con due concerti per i grandi anniversari del 2010, Maurizio Baglini con un omaggio a Chopin, Scarlatti, Chopin e Liszt, e Monica Bacelli, che io accompagnerò con grande piacere per l'omaggio a Schumann e Wolf, con l'introduzione all'ascolto di Michele Suozzo e le celebri ballate di Mignon che Goethe scrisse pensando all'Italia. Come va la ricostruzione, visto che lei ci ha citato questo luogo dell'Aquila? Insomma, questo festival è anche una sfida, no? A tutto sì, quanto quello che è successo con il terremoto. È una sfida nel senso che il festival ha sempre goduto dell'accoglienza di luoghi meravigliosi, meravigliosi luoghi d'arte del territorio aquilano. Molti di questi oggi sono disponibili. È importante che se ne parli perché non sono diciamo opere molto conosciute. Anzi, una delle nostre azioni del festival è proprio quella di far conoscere questi luoghi d'arte così remoti, così nascosti. Se non si conoscono è difficile che si senta poi l'esigenza di recuperarli. E invece è molto importante per la vita di tutti che il nostro paesaggio, quello che ci parla della nostra storia, non venga, come dire, accantonato, no? E quindi noi vogliamo parlare anche di questo. Abbiamo lanciato su Facebook una campagna che si chiama Missing, Disperso, sulla quale pagina di Facebook ognuno potrà testimoniare il suo rapporto personale diretto con l'opera d'arte, con le meraviglie dell'architettura, e testimoniare quanto la vita è diversa quando si è collocati appunto in un ambiente che ci dà anche questo. Ma la scelta della settima è perché è un po' la sinfonia più drammatica di Beethoven? Diciamo che è una sinfonia drammatica, la quale però anche ha dei momenti di tale energia, di tale estasi anche. Estasi, sì, che veramente ci deve a tutti quanti un po' dare una forza per sperare che l'Aquila torni la bella città che era una volta. Io spero che la sera del Chiostro di San Domenico, il 4 dopodomani, gli aquilani si sentiranno a casa, almeno per quella sera si ritroveranno nella loro città, perché è veramente un luogo profondamente legato alla storia di questa città ed è espressione della più bella arte che qui ha avuto insomma modo di esprimersi. Allora ricordiamo che il festival va avanti e le performance sono sempre verso alle ore 19, alle ore 21 in varie località, e ricordiamo l'appuntamento principale che è quello di mercoledì 4 agosto alle 20:45 nel Chiostro di San Domenico con la settima di Beethoven. Grazie a Luisa Preyer. Grazie a voi. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime @radio24.it, oppure che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it e vedere che cosa c'è in programma per questa sera. Da parte mia, una buona serata a tutti.